I changed the world. I changed the world. Ooh, ooh. I changed the world. I wanna change the world. Ooh, ooh, ooh. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso tu. Oh my.